con i drammi del Novecento e con la musica di Luigi Dalla Piccola, ovvero con la rivoluzione dodecafonica. A risentirci dunque domani sera alle 21:15. Un cordiale saluto da Armando Torno. Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia, di Dino Pesole. In vista del primo turno delle elezioni presidenziali francesi e soprattutto del secondo decisivo turno di ballottaggio del 7 maggio, ci soffermiamo questa sera su una questione decisiva che peraltro non riguarda solo la Francia, ma buona parte dei paesi europei, Italia compresa. Il peso e la natura specifica dei cosiddetti populismi di destra e di sinistra nelle scelte degli elettori. Lo facciamo in compagnia della professoressa Sara Gentile, che è docente di scienza politica e profonda conoscitrice della politica e della società francese. Buonasera professoressa e bentornata. Buonasera a voi e grazie per l'invito. È un fenomeno questo dei populismi che non nasce oggi, anche se, come vedremo, acquista proprio oggi, soprattutto sull'onda del fenomeno migratorio e della crisi economica, connotati del tutto specifici, anche e soprattutto, se vogliamo, dal punto di vista economico. I partiti o movimenti populisti cominciano a nascere agli inizi degli anni 70 in vari paesi europei. La Francia in questo è antesignana, con la nascita del Front National di Le Pen nel 1972, e si sviluppano a macchia d'olio. Oggi se ne contano in Europa più di 27, distribuiti in circa 14 paesi. Sono diversi i fattori alla base di tale fenomeno: la crisi dei migranti, l'emergere dei primi segnali di crisi nel corso degli anni Ottanta, il processo di costruzione dell'Unione Europea che, a partire dai primi anni 90, pone in primo piano il problema della sovranità, e ancora il processo di globalizzazione crescente, con il primato delle logiche economico-finanziarie e il predominio del mercato, in una dimensione in cui vengono a disperdersi le specificità, le autonomie, le culture e i profili dei singoli paesi. Da ultimo, e non meno importante, vi è la crisi di legittimità e di consenso che si manifesta sempre più verso le élite di governo, e in generale verso la classe politica, percepita come non più in grado di garantire un'adeguata rappresentanza politica. Vi si aggiunga la scomparsa dei partiti comunisti, l'indebolimento dei partiti di ispirazione socialdemocratica, la mutazione della forma storica del partito di massa, che diventa pigliatutto, ossia pragmatico elettorale, impoverito di ideologia, senza più un solido apparato e un radicamento nel territorio. In questo contesto, professoressa Gentile, trovano terreno favorevole i partiti e i movimenti populisti. Ecco, allora parliamone un attimo un po' più nel dettaglio. Abbiamo ripercorso un po' un minimo di storia della nascita dei populismi moderni. Allora, partiamo dalla Francia. Allora, come si caratterizza e che peso ha avuto nel corso della campagna elettorale? Allora, il problema, la vostra scheda è già molto illuminante, ma il problema che si pone in Francia, soprattutto adesso perché c'è questo evento cruciale per l'Europa, questo delle presidenziali, perché è importante, capisce, non solo per la Francia, il problema è piuttosto complicato, perché da una parte si ha, come dire, e questo lo si vede dalle previsioni di voto, per quanta fiducia si possa dare ai sondaggi, quindi prendendoli un po' col beneficio dell'inventario, però c'è una ascesa non solo del Front National, che è storicamente un partito populista di estrema destra, ma stando alla, come dire, allo scenario di queste presidenziali, che poi si può estendere bene o male ad altre realtà europee, ma oltre a questa ascesa fuori misura di Marine Le Pen, vi è anche l'ascesa di un altro candidato dell'estrema sinistra, con la France Insoumise, che è Jean-Luc Mélenchon. Ora, proprio, diciamo, l'emergere di questi due candidati e quindi di questi due raggruppamenti pone un problema, perché è evidente che diciamo il populismo estremo e xenofobo della Le Pen ha buon gioco, non solo, e viene in qualche modo ripreso per vari motivi dal candidato della destra azzoppato dalle inchieste, cioè da Fillon, che ha come dire inasprito le sue proposte politiche nel senso proprio anti-immigrazione, eccetera. Però l'altra cosa interessante, e qua poi è il nodo, è l'emergere di questo candidato, un outsider rispetto, non in politica, ma rispetto ai candidati tradizionali, che è Mélenchon. Perché non c'è dubbio che proprio Mélenchon ha operato questa intelligente trasformazione o comunque diciamo strategia elettorale, perché per lui, che è appunto un ex socialista uscito nel 2008 dal PS, collocatosi a sinistra, all'estrema sinistra sempre, bene, a questo punto lui ormai da due mesi, da quando la campagna, un mese e mezzo, è entrata nel suo vivo, lui ha abbandonato, ma voglio dire molto chiaramente, quindi assume, come dicono i francesi, cioè riconosce, ha abbandonato la dicotomia sinistra-destra per abbracciare invece quella che è la dicotomia popolo-oligarchia. Peuple-oligarchie, cioè lui assume e ne è consapevole un linguaggio e una postura populista, seppure di sinistra, perché questo gli consente di allargare, e gli ha consentito, lui al 18 e qualcosa per cento, il suo elettorato. In questo contesto, professoressa, appunto, lei scrive che il processo di istituzionalizzazione del populismo è una tendenza che si è già affermata da alcuni anni, dove le classi politiche di governo tendono ad appropriarsi di alcune proposte politiche populiste. Quindi, sì, come sì, dire, infatti, c'è uno scambio in qualche modo. C'è uno scambio, e lo scambio c'è per più ragioni. La sua domanda è molto opportuna e mi permette di dire velocemente delle cose. Intanto, questa istituzionalizzazione è avvenuta già, per esempio, in Francia, esemplarmente con la presidenza Sarkozy. Lì era molto evidente, sia nella campagna, condotta tutta proprio passo passo, ricalcando le orme di Jean-Marie Le Pen allora, sia poi da presidente, Sarkozy attua delle politiche populiste che sono la riprova di un fatto fondamentale, perché poi a livello sistemico da una parte e di riflessione teorica, e noi dobbiamo capire cosa questo significa, cioè significa due cose: da una parte il fatto che proprio perché diciamo le politiche tradizionali, sia neoliberali che socialdemocratiche, sono fallite, questo ha dato spazio enorme, non solo ha dato spazio ai populismi, ma ha determinato la necessità, tra virgolette, dei politici diciamo tradizionali, la destra tradizionale o dall'altro côté la sinistra, ha determinato il fatto che essi dovessero prendere a prestito dai populisti per poter poi proporre al governo politiche che in qualche modo ottenessero un qualche consenso e fossero efficaci. Certo, quindi... E questo è un livello importante perché per esempio diciamo un'analisi interessantissima, che qui non posso io esporre molto, dirò le cose essenziali, ma che ci fa capire tanto, cioè il fatto che da una parte noi abbiamo diciamo la crisi e tutto quello che abbiamo detto sono terreno favorevole per i populismi, ma è terreno favorevole anche il fatto, come dice questa teorica, che non è certo la prima arrivata, una grande sociologa, fra l'altro compagna per una vita di Ernesto Laclau, che appunto studiava i populismi e li studia anche lei, cioè Chantal Mouffe. Lei è belga di origine, francese di adozione, ma insegna in Inghilterra. Lei sostiene che proprio diciamo il fallimento, ecco io lo riassumo in due parole, sia delle proposte liberali, neoliberali, delle ricette di tipo economico soprattutto, ma anche di visione della vita, sia il fallimento delle politiche molli della socialdemocrazia hanno proprio aperto il varco ai populismi. Sì. E perché? Non soltanto perché la rabbia della gente, il malcontento, il mécontentement, come diceva Le Pen, il fossato che si allarga sempre più fra governati e governanti, appunto c'è, ma anche soprattutto, lei dice, perché i populisti, infatti lei si dichiara una populista sì. patriottica, ma di sinistra, certo. cioè infatti lei in qualche modo sostiene la teorica un po' delle posizioni di Mélenchon oggi, lei dice i populisti sono stati gli unici in grado di creare che cosa? Quello che dà in là è che la vita dell'agire politico, cioè il riconoscere il conflitto, quindi un noi e un voi, e questo lei dice Marine Le Pen per la Francia e altri in Austria, nei Paesi Bassi, l'hanno fatto alla grande, cioè il noi, l'identità, una comunità che si riconosce in certi valori, certo. contrapposto a loro. E in tutto questo, professoressa, si inserisce l'ultima questione che le voglio porre, abbiamo pochi minuti ormai. Sì. Il fatto che la democrazia non ha mantenuto le sue promesse, e questo è un po' la democrazia non ha mantenuto le sue promesse e finora mostra di non avere nessuna intenzione neppure di riprendere il filo di ciò. Perché? Perché è inevitabile, vabbè, su questo dico ormai non solo i fatti. La democrazia non ha mantenuto ciò che aveva promesso, o ha mantenuto un involucro formale che è quello della democrazia minimale, no? Mentre la democrazia nel suo sorgere era stato un torrente in piena che aveva allargato, aperto le porte ai diritti, a una nuova idea di società, certo. A una nuova idea di progresso. La democrazia invece si è rinsecchita, è rimasta un guscio vuoto, proprio perché sia, diciamo, il versante conservatore neoliberale che quello socialdemocratico, soprattutto quest'ultimo, cosa ha fatto? Beh, ha cercato di gestire alla meglio uno spazio che poi è diventato sempre più ristretto dentro i limiti di una società che non si metteva più in discussione, di un modo di produrre, di un modo di gestire l'economia. Basti pensare alle leggi sul lavoro che sia la Francia con la legge El Khomri che noi col governo Renzi abbiamo approvato. Esatto, ecco, allora professoressa la interrompo perché abbiamo esaurito il nostro tempo, la ringraziamo molto per questo esaustivo quadro delle origini e anche dei limiti, se vogliamo, delle cause profonde che sono dietro questo fenomeno. La ringraziamo ancora e buona serata, grazie. Arrivederci, grazie.